Yeah! domine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava festi, si stava festi, che le nostre assorbi, al maggiore, al nascosto, alla dote, a noi. Silenzio, ricapitano, no. La principessa su sveglia di padrone. Thank you.

cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, l'ombre che si inseguono dall'una all'altra stanza lo cercano prendetelo l'ombre si sono riunite l'ho preso signora la rivedo Laurie said, why are you here? Pronta a volarsi, facile a tradir, ecco la vera. per la Russia. Partite! A mezzanotte! Venga domani! Poi verremo allora! Entro bordo! Addio! Addio! Roma domani, qui stesso. Stanotte, rispondi!